Sono le ore 19.34 di mercoledì 20 marzo 2024. Sto uscendo dal Maxi, devo dire, ho abbandonato a metà la presentazione di un libro umano non umano di Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, che parla di, diciamo, di tutti i rischi, di tutti i problemi, di tutte le paure legate all'intelligenza artificiale. Io devo dire che ero già molto spaventato quando sono entrato, perché la sala era piena di telecamere, microfoni e dei cyborg veri e propri, soprattutto dei cyborg di genere femminile, che si lamentavano del trucco, che si lamentavano già in ascensore per salire nella sala scarpa, si lamentavano delle luci e fin da subito si preoccupavano di preparare il racconto di questa esperienza, che era un'esperienza televisiva, fondamentalmente un libro di ispirazione tipicamente televisiva, con poi in sala, diciamo, i tipici tratti della presentazione di un libro, che è già, diciamo così, lo spunto per un talk show, più che un invito alla lettura. E infatti anche proprio nella mimica, nel metodo, ho rivisto tutto lo schema tipico di quando si parlava in questa chiave del web 20 anni fa. E le uniche parole veramente sagge che ho sentito sono, ancora una volta, fatalmente venute dalla persona più preparata, che era padre Antonio Spadaro. Per fortuna era coinvolto tra i relatori, che ci ha ricordato che quasi tutte le reazioni scomposte all'apparizione di una nuova tecnologia si ripetono in tutte le fasi di passaggio da un'era tecnologica all'altra. Ha citato anche la scrittura, ha citato la fotografia, la riproducibilità dell'arte. E se c'è stata un'occasione in cui davvero si poteva parlare di intelligenza artificiale, beh, è stata un'occasione persa. Vi dico soltanto che una delle paure che venivano sollevate nasceva dal fatto che ChatGPT ogni tanto tende a mentire, tende a provare a indovinare, poi si scusa per la propria approssimazione, e questo è un tratto che viene attribuito appunto ad un'intelligenza artificiale, quando poi sappiamo bene che quel limite è il limite di chi l'ha programmata, no? che ha deciso di dargli esattamente questo tratto. Forse, chissà, per renderla un po' meno spaventosa. Il tema del limite è rientrato continuamente invece dalla finestra, proprio per spiegare la differenza tra l'essere umano che tende al limite e una ipotetica intelligenza artificiale senza limiti. E è stata una presentazione in questo molto diversa rispetto a quella di ieri, del libro Crisi reputazionali e infosfera. Non è esattamente questo il titolo, non me lo ricordo, ve lo confesso. Comunque, uscito sempre poco tempo fa e presentato da Daniele Chieffi, l'autore, e su cui ho scritto un post che ho pubblicato ieri su Substack, insomma l'ho pubblicato sui vari canali social, e su cui non mi dilungo. Però magari se qualcuno lo vuole andare a leggere, mi piacerebbe sentire anche le vostre opinioni, perché anche e soprattutto la comunicazione di crisi sta riflettendo proprio questo mondo tutto fondato sulla performance, tutto fondato sul piano di una rappresentazione, dove quindi evidentemente c'è un palcoscenico e dove quindi evidentemente, quando da pubblico lanci gli ortaggi, lo fai proprio per ricordarti che sul palcoscenico non ci puoi salire, perché è qualcun altro che lo mette in piedi e qualcun altro che gestisce la scaletta per salirci.